Come avete sentito, c'è una sigla nuova questa sera nella trasmissione. Infatti, Also Sprach Zarathustra mi sembrava eccessivamente solenne, dato il carattere di riflessioni che sono contenute in questa rubrica. E così ho pensato di sostituirla con una un po' più leggerina. Vi dico subito che l'argomento della trasmissione di stasera sembra abbastanza particolare perché riguarda i titoli dei temi di italiano proposti agli esami di maturità. In realtà tanto particolare non è, perché attraverso quelli che sono i titoli assegnati si può avere anche un'idea di quella che è la situazione generale, non dico politica, ma perlomeno sociale del paese. Attraverso i temi si ha un po' il polso di quella che è la situazione. Forse, mai come quest'anno, e di solito il giorno dopo i giornali sono prodighi di critiche nei confronti dei temi ministeriali, ma mai come quest'anno si è raggiunto il fondo dell'abiezione. Infatti, i temi che sono stati proposti, e io leggerò quelli proposti dallo scientifico, ma i primi tre sono uguali per tutti gli ordini di scuole, i temi che sono stati proposti sono semplicemente aberranti, e spiego perché. Il primo tema, a parte il discorso tipicamente ministeriale del dichi il candidato o quali riflessioni o analizzate e discutete, sempre preposto ad una frase, quasi che non si sapesse che la frase in sé va pensata e commentata, dico, a parte questo, vi leggo immediatamente il primo titolo. Il primo titolo dice: quali riflessioni vi suggerisse il seguente pensiero di Piero Calamandrei? Due punti aperte virgolette: le diversità di opinioni politiche sono essenziali in ogni convivenza democratica, ma alla base ci deve essere un sentimento di fede nell'uomo, di rispetto della dignità dell'uomo, che è poi una grande idea cristiana. Il tema praticamente inizia con la democrazia e finisce con cristiana. Questo tanto per dire da che parte vengono i temi, evidentemente. E poi da notare che la diversità di opinioni politiche va bene purché ci sia il rispetto della dignità e la fede nell'uomo di marca cristiana. Non so fino a che punto quindi si possa accettare una diversità di opinioni nel momento in cui la si condiziona poi e si dice che quello che conta e comunque un certo taglio, una certa impostazione. Concetti infatti come fede e dignità non possono certo essere rifiutati a priori e nessuno si sognerebbe di contestarli. Quello che magari ciascuno potrebbe contestare è il modello di fede e di dignità a cui rifarsi, che a seconda della prospettiva in cui ci si collochi è notevolmente diverso. Però evidentemente a questo punto chi lo faccia finisce con l'essere tacciato di antidemocratico, per non dire di terrorista. Tant'è vero poi che questo discorso finisce col diventare la famosa libertà di coscienza, che però deve rimanere a livello di coscienza, perché non appena questa libertà si manifesti evidentemente in qualche comportamento, ma non dico extra, ma anche a livello di voto, poi l'individuo viene sgridato per avere contravvenuto a quella che era l'idea dominante.

la forza è nel puntello impugnato da oneste fortissime mani. In realtà mi sembra che ciò non avvenga, come dice la canzone, anche perché continuano a venirci riproposti vecchi sacrifici, tra virgolette, per continuare una politica che non potrà che portare ad altri sacrifici, sempre tra virgolette, ovviamente da parte della stessa gente, a favore invece di sempre la stessa gente. A parte questa parentesi, torniamo ai nostri temi. Il secondo direi che invece era farneticante, in questo senso diceva: analizzate e discutete alla luce dei vostri studi e delle vostre convinzioni il seguente giudizio di Francesco De Sanctis. Il romanticismo, come il classicismo, erano forme sotto le quali si manifestava lo spirito moderno. Foscolo e Parini nel loro classicismo erano moderni, e moderni erano nel loro romanticismo Manzoni e Pellico. Al di là della frase del critico famoso estrapolata dal contesto, che quindi può suscitare qualche perplessità, mettere insieme due movimenti abbastanza dissimili come il romanticismo e il classicismo e dire che sotto entrambi si manifestava lo spirito moderno, direi che non è un'analisi estremamente acuta. Ogni movimento nasce evidentemente per portare alla luce le idee emergenti del tempo, e in questo ovviamente ha la sua modernità, sempre relativamente al momento in cui nasce. Che poi sia moderno è tutto da stabilire, evidentemente, se poi per moderno si intende adatto ai nostri tempi oppure ai tempi in cui scriveva il De Sanctis. Su questo io ho sempre dei severi dubbi, dal momento che in fondo di moderno in senso assoluto non c'è niente. Ma se poi il classicismo è moderno come il romanticismo, allora a che cosa si deve rifare il candidato? Deve in pratica trovare per forza delle identità per cui classicismo uguale romanticismo? E allora perché ti fanno studiare le varie epoche e movimenti se poi tutto confluisce nel calderone? Come poi succede quando metti assieme Foscolo e Parini, etichettandoli come classici quando si dovrebbero fare parecchi distinguo sia per l'uno che per l'altro, e si qualificano entrambi di modernità e si qualificano poi ulteriormente di modernità, due come Manzoni e Pellico. Ora, se come statura Foscolo e Parini possono anche essere simili, Manzoni e Pellico tanto simili non sono, oltre che essere ciascuno romantico a modo suo. È un accostamento quindi estremamente casuale, e non si capisce attraverso quali meccanismi l'allievo deve far combaciare questo puzzle assurdo che interseca movimenti e autori con una naturalezza che ha dell'incredibile. A questo punto tanto varrebbe fare un minestrone di tutta la letteratura e poi dire: ma in fondo è tutta moderna, dal 200 fino ai giorni nostri. Non credo che De Sanctis volesse dire questo. Certo che dare una frase del genere in un tema di maturità è perlomeno assurdo, e lo dimostra il fatto che penso pochissimi si siano messi a farla. È abbastanza inutile, mi pare, voler a tutti i costi cercare parallelismi e modernità dove evidentemente parallelismi e modernità non esistono. Tu che hai imparato quattro parole in fila per darti sicurezza, per sentirti vivo, per darti un motivo, un punto cardinale. Tienti la tua ricetta, a me non può servire. Tu che hai imparato quattro parole in fila e le ripeti sempre per esserne sicuro, non capire mai che è una musica vecchia, che sei solo a cantarla ed è un canto malato. Tu che hai imparato quattro parole in fila e ti sei illuso di aver la verità. La tua testa è un cassetto con della carta dentro, piena delle ricette di professori morti. Tu che hai imparato quattro parole in fila e poi le hai vendute perché ora hai trovato una sicurezza pagata coi soldi del malato. Hai chiamato illusioni tutti i tuoi sogni del passato. Tu che hai imparato quattro parole in fila per scusarti di non essere un uomo. Cura te stesso, prendi uno specchio e guarda le rovine della tua sicurezza. Tu che hai imparato quattro parole in fila e che non hai seguito una ricchezza viva. Ora tu senti il grido di chi curò da solo le sue piaghe e le parole sono centomila. Il terzo tema era il tema storico e devo dire, onor del vero, che era anche il migliore. A differenza degli anni scorsi in cui il tema copriva un periodo vastissimo, quest'anno era ben preciso e limitato e diceva interventismo e neutralismo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Un argomento tra l'altro abbastanza interessante visto che di guerra mondiale si è tornato a parlare in questi giorni. Per cui, dando delle testimonianze storiche dell'epoca, si poteva poi anche concludere facendo un'analogia con il presente. Il difetto di tutti i temi storici è che o uno ha letto dei testi in più del manuale, o se no è pura enumerazione della paginetta del libro di storia. Di conseguenza, temi del genere dovrebbero essere temi non mnemonici, ma di ricerca e di consultazione, che non è possibile fare in sede d'esame di maturità. Ragion per cui titoli anche buoni come questo poi finiscono con l'essere sprecati, a meno che uno per motivi suoi non sia un profondo cultore e conoscitore della materia. Ma ad ogni buon conto su questo titolo non c'è veramente niente da dire. L'impostazione è corretta, purtroppo non è corretta la sede in cui si dovrebbe svolgere questo tipo di lavoro. Gridavi, viva la rivoluzione. due compagni. Ho cercato il rifugio in un portone, in un attimo, senza il tempo di pensare, ho vissuto ciò che più tu non vivrai. Cento strade per tornare verso casa, tanto fumo, ma soltanto per piangere. Quando ho letto sul giornale non capivo, mi sembrava un'altra storia, ma qualcosa marciapiede, una giacca ed un fazzoletto rosso, più nessuno. Ultimo tema della mattinata, segnato appunto, come ricordo, gli esami di maturità, è la professionalità come fattore di progresso economico e sociale. La professionalità è un tema caro ai riformisti della secondaria superiore, che oramai da 30 anni dibattono su come riformare questa scuola senza mai riformarla. E questo ovviamente non è che porti molto avanti nella strada del progresso economico e sociale auspicato dal titolo. Sarebbe ora di finirla, di dare i temi retorici su quello che sarebbe un radioso domani sé e poi non fare mai niente perché questo radioso domani sé si avveri. È quindi abbastanza mistificatorio venire a parlare di professionalità, un concetto tra l'altro che è un po' più ampio di quanto si crede, cioè non è che la professionalità sia saper fare bene un mestiere, professionalità significa anche assunzione di ruolo con tutto ciò che comporta l'assunzione di ruolo, un concetto quindi sociologico un po' più ampio e ben più difficile che da quello che ho visto pochi hanno colto nei loro compiti, ma d'altra parte è inutile che si venga a parlare di queste cose quando poi i programmi e i contenuti dell'insegnamento sono lontanissimi, non dico dalla professionalità, ma anche dalla sociologia o comunque dalla visione della società e del mondo che c'è all'esterno della scuola. E quando appunto si hanno dei vagheggiamenti di tipo letterario come quello letto sopra, per cui un tema che tutto sommato potrebbe far discutere, in realtà finisce col diventare estremamente limitativo, dal momento che oramai le discussioni sono già state fatte in altre sedi e senza risultato, e nelle sedi dove invece dovrebbero essere fatte non si fanno, perché c'è da svolgere un programma che impedisce poi in pratica di riuscire a fare dei temi come questo. Le solite contraddizioni della scuola italiana, che sempre perennemente dovrebbe rinnovarsi, ma che non trova mai la forza o la scossa per farlo realmente, e che dal 68 in poi non solo non è andata avanti, ma tende anzi a tornare indietro, quasi in memoria delle condizioni di disagio che se c'erano allora, direi che ci possono essere anche oggi a maggior ragione. Con questa canzone si chiude la puntata di questa sera dedicata all'analisi dei temi assegnati all'esame di maturità. Io, come ho già detto, accetto di discutere evidentemente le tesi che espongo, e chiunque volesse farlo può presentarsi agli studi della radio e in questa stessa trasmissione gli sarà concesso di farlo evidentemente. Detto questo, io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo e senz'altro mando la sigla.